Signore, tue son le laude, la gloria e l'onore, et omne benedizione. Quante sono altissimo se non fanno, e nulla omne mio diventare. Laudato si mi Signore con tutte le tue creature. Laudato si mi Signore per sora, luna e le stelle. In cielo l'hai formate, clarite e preziose belle. Laudato si mi Signore per frate vento, e per aere nobile e sereno e donne tempo, per lo quale alle tue creature si mi Signore per sora qua. Laudato si mi Signore.